La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Ben ritrovati amici alla Rosa Purpurea, ora di cinema settimanale qui su Radio 24. Classifica degli incassi che ci racconta di un cinema che gira un po' a vuoto in queste ultime settimane. Saranno i mondiali, saranno i primi caldi, anche se sembrano subito finiti, almeno nel nord Italia. Sarà anche la scarsità di pezzi da 90 per quanto riguarda la proposta cinematografica. Fatto sta che con soli 409.000 euro di incasso nel primo weekend, The Hole in 3D di Joe Dante, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, si è piazzato al primo posto in classifica. Penso sia in questa stagione il film che riesce a prendere la leadership in classifica con il più basso incasso nel weekend. Sta per arrivare però un film che potrebbe essere uno degli ultimi colpi importanti di questa stagione, ovvero A-Team. Ne parliamo fra poco, prima però i nostri titoli di testa. La più nerboruta e improbabile squadra speciale del piccolo schermo sbarca al cinema. È l'A-Team, capitanato come sempre dal colonnello Hannibal. Nel cast Liam Neeson, Bradley Cooper e Jessica Biel. 5 appuntamenti per farla innamorare. Ancora una commedia romantica per la premiata coppia Nia Vardalos-John Corbett, che firmò il successo del Mio grosso grasso matrimonio greco. Un noir per raccontare la generazione dei 30-40enni dell'Iran di oggi. È About Ellie, storia di un annegamento mancato e di una scomparsa reale, che fanno riemergere antichi e radicati pregiudizi nei rapporti fra uomini e donne. I suoni trionfali della sigla di uno dei telefilm più amati di tutti i tempi. Se hai un problema e non sai come risolverlo, diceva la voce narrante, puoi chiamare l'A-Team, la squadra speciale più tosta e scapestrata che esista. Il colonnello Hannibal, il capo, sigaro e sorriso sempre in bocca. P.A. Baracus, il moicano nero che ha paura di volare. Il tenente Faceman, detto Sberla, così fascinoso verso il gentil sesso. E infine il matto All-in Mad Murdock, il miglior pilota di velivoli in circolazione. Dopo aver dominato le TV di tutto il mondo per 5 anni, negli anni 80, ora l'A-Team sbarca sul grande schermo seguendo il percorso di tanti altri telefilm degli anni 70 e 80, da Starsky Hutch alle Charlie's Angels. Un anno fa, gli uomini di un comando speciale vennero condannati ingiustamente, evasi da un carcere di massima sicurezza. Sono tuttora ricercati e sopravvivono come mercenari. Capo, questa è pura follia. E vedrai dopo. Così mi piace. Ti sono mancato? Tu mi sei mancato tanto. L'inizio è sempre quello, il comando condannato per colpe che non ha scommesso, evaso da carceri impossibili, che si ritrova per l'ennesima missione. L'inizio di tutto è il salvataggio di Faceman incastrato in un tubo di copertoni dai narcotrafficanti messicani. Intelligence militare. Di chi parli? Di te, bello. Ma non no. Tanto intelligente, visto che sei infilato in dei copertoni. Mi piace, non potevo chiedere di meglio. No. è la vita che sognavo. Sì. Buongiorno! La festa comincia! A perseguire i quattro del team con il loro super furgone nero c'è la bellissima Jessica Biel, il capitano Charissa Sosa, che in passato aveva flirtato con Sberla. Scusa, è previsto che anch'io ti chiami tenente? No, è previsto che mi chiami capitano. Capitano? Esatto. Capitano, mio capitano! Ma pensa. Quindi alla fine hai detto no ai bambini, no a una famiglia. Non c'è montagna che non sai scalare, eh? 3 anni. Non ci vediamo da 3 anni ed è di questo che vuoi parlare? È un inseguimento continuo, l'A-Team alla ricerca delle prove della propria innocenza, il capitano Sosa dietro l'A-Team, l'FBI dietro il capitano Sosa e lo spettatore in mezzo, in un frullatore di adrenalina e sparatorie che non si ferma per nessuno dei 120 minuti del film. La devi dimenticare. Conosco quella donna, non è un meglio problema. Di chiunque altro. Io non metto piede in nessun aereo, Hannibal. Niente alianti, aeroplanini di carta, ultraleggeri. Allora non mi perdonerei mai? No. In Messico è stato tanto tempo fa e ti ho salvato la vita. Ero nelle truppe aviotrasportate prima di incontrare te, lo vuoi capire? E per questo frignavi come un bambino? 263 voli. Un grazie sarebbe apprezzato. E un giro in elicottero con te manda tutto all'aria. Pensa a una delle truppe aviotrasportate che ha paura di volare. Yeah. Adesso basta, nessuno scende dal camion una volta che l'abbiamo preso. Dopo prove raffinate con i più grandi autori del cinema, Liam Neeson si cala nei panni del colonnello Hannibal in questa commedia tutta azione, con grande ironia. A volte è bello avere un ruolo solo fisico e non essere troppo intellettuali, dover solo combattere, correre, dire un paio di battute. È stato bello, divertente. Ma nonostante la presenza di un grande attore come Liam Neeson, si impone come vero protagonista del film il Faceman Sberla di Bradley Cooper, che dopo Una notte da leoni firma un altro successo destinato a riposizionarlo nell'elite degli uomini locandina dello star system hollywoodiano. Un film che gli ha richiesto tanto impegno fisico. È la cosa più difficile che abbia mai fatto, sia fisicamente, sia per avere così tanta dimestichezza con una pistola, cosa che non avevo mai fatto. Insomma, il curriculum di questo ragazzo era piuttosto impegnativo. E il team centra l'obiettivo: divertire e sballottare il pubblico di qua e di là per un paio d'ore. I vecchi attori della serie TV hanno criticato il film perché, dicono, ha perso un po' della sua atmosfera, della sua filosofia. Ma forse siamo noi che non siamo gli stessi di 25 anni fa, così come il pubblico del cinema di oggi, cui questo prodotto si rivolge. Un pubblico di teenager, cui però non mancheranno di aggiungersi molti papà, che rideranno di cuore delle peripezie di Hannibal e compagni, che in fondo sono sempre le stesse. Il cielo si è aperto! Tranquillo! E sono certa che ti piacerà. Beh, se ne trovi un'altra così, tienila da parte anche per me. Auguri, ragazzi! Ti auguro tanta fortuna! Te lo auguro con tutto il cuore. Evviva gli sposi! E siate felici! Un gruppo di amici, ex compagni di università, che in occasione del ritorno di uno di loro dalla Germania vanno a fare una gita al mare. Li avete sentiti? Sono i protagonisti di About Ellie, film premiato a Berlino lo scorso anno e che arriva nelle sale cinematografiche italiane. Questi amici affittano una villa, sono appunto compagni di università, quindi medici, avvocati, ormai giovani uomini e donne in carriera, specchio di un Iran, diciamo così, borghese, fra virgolette. Affittano una villa, dicevo, insieme e si conoscono soprattutto Ellie e Ahmad. Ellie è un'amica di una delle protagoniste, Ahmad è uno degli amici del gruppo, si conoscono, dicevo, e si piacciono. In fondo forse Ellie è stata invitata lì proprio per quello. Dopo tre quarti d'ora, forse la parte un po' più pesante del film, quella un po' più macchinosa, dove sì, conosciamo bene i personaggi, ma forse si poteva essere un pochino più rapidi in questo tipo di preambolo, dicevo, dopo tre quarti d'ora circa, il doppio colpo di scena, e lì veramente grande colpo di regia. Ellie è assegnata a guardare i bambini in riva al mare, mentre le altre donne rassettano la casa e gli uomini giocano a pallavolo. Ellie gioca con gli aquiloni sulla spiaggia, a un certo punto un urlo, uno dei bambini è finito in mare, gli uomini si precipitano a cercarlo in acqua, lo trovano e lo salvano, quindi attenzione dello spettatore su questo momento, snodo drammatico, ma proprio quando il pericolo sembra scampato si rendono conto che Ellie, che doveva guardare i bambini, non c'è più. Dai, forza, dai, forza! Facciamo presto! Dimmi che respira! Ahmad! Ellie? Era in acqua! Dobbiamo cercarla! Ma sapere che succede! Ehi! L'hai vista? Non c'è! Vieni! Ma che cosa è successo? Ellie è sparita! Ellie! Sabita! La domanda a quel punto diventa: dov'è finita Ellie? La sua scomparsa improvvisa diventa quasi un pretesto, il pretesto per raccontare qualcos'altro, per raccontare la messa in moto di un meccanismo di accuse e sospetti reciproci fra gli amici, non tanto sulla responsabilità della scomparsa. Chiaramente la sorte di Ellie è un mistero e rimane un mistero per un po' di tempo, ma come dicevo, quanto sui rapporti fra di loro, perché l'ha invitata, perché è sparita, forse si è offesa perché ho detto questo, quello. Il senso di colpa sembra aleggiare sui protagonisti e il film diventa un claustrofobico regolamento di conti fra di loro. Ma è questo forse l'aspetto più intimamente interessante di questo film, la cosa particolare, diventa anche l'analisi di un rapporto fra uomini e donne nella società iraniana di oggi, fra uomini e donne, dicevamo, colti, comunque di buona società, che finché le cose andavano bene erano tutti d'amore d'accordo e avevano, come dire, un aspetto molto moderno nella loro esistenza e nel loro rapporto fra loro stessi. Quando il dramma ci ha messo lo zampino, escono tutti questi retaggi tradizionalisti, dove poi l'uomo diventa l'uomo della società iraniana, la donna diventa la donna della società iraniana, con tutto il retaggio appunto che si portano dietro, nonostante gli anni siano i nostri e nonostante soprattutto nella prima parte del film i rapporti fra di loro procedevano in maniera totalmente diversa. Insomma, un'analisi del rapporto uomo-donna nella società iraniana, partendo però dai rapporti basilari all'interno delle coppie e dei gruppi. È un film anche che spiega quanto le piccole cose, i dettagli che nella normalità sembrano innocenti e trascurabili, sui quali tutti siamo portati a sorvolare, assumano poi un'importanza esagerata, addirittura esagerata, dopo che la vita compie il suo percorso. Mazzo, che cosa vuoi da me? Sei una bugiarda! Magari non è morta. Ma che cosa vuoi? Così. Voglio sapere la verità! Lui non è il fratello. M'ha detto io sono fidanzata, non posso venire. E avete sentito questa domanda angosciata in cui il protagonista si chiede se avesse chiesto questa cosa. Il protagonista che avete sentito è il fidanzato di Ellie, che viene recuperato a un certo punto quando di Ellie non si hanno più tracce, e che appunto dice: ma l'aveva detto io non posso venire, quando l'avete invitata a passare questo innocentissimo weekend con voi sulla spiaggia. Ecco, questo è il meccanismo che si libera un film fondamentalmente sui personaggi, sulle loro reazioni davanti al fatto, sulla capacità dell'animo umano di proteggersi e di ricompattarsi anche davanti ai drammi più sconvolgenti. Ed eccoci arrivati alla prima finestra aperta sul DVD game di questa settimana. Come sempre, tre tracce disseminate nel percorso della Rosa Purpurea, tratte da un film, dialoghi, piccoli frammenti di dialogo di un film che dovrete indovinare per provare a vincere proprio una copia in Blu-ray o DVD di questo film. Cominciamo subito con la prima traccia di oggi. Ieri ho fatto un uovo in camicia. Mi è sembrata la cosa migliore da fare in un giorno in ufficio che è stato fra i peggiori di tutta la storia moderna. Mi spieghi come hai fatto a non mangiare un uovo in vita tua? No, ne ho mangiati nei dolci. E allora, avete sentito, si parlava di cucina, di uova in camicia, insomma, è già un primo indizio. Vi ricordo l'indirizzo di posta elettronica, larosapurpurea@radio24.it, aggiungete sempre anche il vostro indirizzo di posta privata per potervi raggiungere più facilmente nel caso siate i vincitori di questo film in DVD o Blu-ray. Più tardi, un'altra traccia. E adesso andiamo avanti con un terzo film con ambizioni di classifica in questo fine settimana, come dicevamo, dominato dai muscoli dell'A-Team. Qui di muscoli ce ne sono molto meno, c'è però tanta simpatia, si ricompatta una coppia che qualche anno fa aveva sbancato il botteghino con Il mio grosso grasso matrimonio greco. Questa volta Nia Vardalos, la protagonista, è anche regista di questo film, che si intitola 5 appuntamenti per farla innamorare. L'ha visto per noi Chiara Pizzimenti. Prima regola, fallo ridere. Seconda, usa solo abiti sexy. Terza, mostrati sempre interessata. Quarta, sorprendilo costantemente. Quinta, bacialo con passione. Quando l'amore finisce, è ora di guardarsi intorno. Avete appena sentito la filosofia in pillole di Genevieve, fioraia di Brooklyn, romantica fino all'eccesso, ma con regole ben precise. 5 per l'esattezza, come gli appuntamenti che concede a chi vuole uscire con lei. Sono la quantità perfetta di tempo per ottenere il massimo del divertimento senza soffrire. Lei vuole solo fare sesso con te. Una specie di scambista. Non l'ho capita. Genevieve, bloccata dal traumatico divorzio dei genitori causato dall'infedeltà paterna, non vuole relazioni stabili, così non rimane ferita se viene lasciata. È lei a dire addio al quinto appuntamento. La regola però non si rivela universale. La fioraia dal sorriso sempre stampato in viso incontra Greg, che ha appena aperto un ristorante vicino al suo negozio. Escono insieme ed è lui a dire basta all'appuntamento numero 5. Non hai chiamato. Hai detto 5 appuntamenti, poi si passa oltre. Ma io sto scherzando. Dobbiamo andare oltre perché... Sì, giusto, ci vediamo. Io odio San Valentino. Suona così il titolo originale di questo film, che ha un percorso netto fra un 14 febbraio e quello dell'anno successivo, e in cui, è ovvio, l'amore trionfa. Non può essere altrimenti in una pellicola che vuole essere una commedia romantica e che non dimentica neanche uno dei cliché del genere, ma che soprattutto vuole sfruttare il richiamo della coppia Nia Vardalos-John Corbett. Oh, oh. Nella mia fantasia tu indossi questi con nient'altro che un sorriso. Oh mamma! C'era una volta il mio grasso grosso matrimonio greco, ma la favola non funziona più. Allora, era il 2002, la critica si mostrò favorevole e al botteghino fu un trionfo in tutto il mondo. Dopo, l'attrice e sceneggiatrice di origine ellenica non ha più avuto la stessa buona sorte e anzi è rimasta schiacciata da quel successo, rifacendo sempre la stessa commedia, seppure in salse diverse, dalla Mia vita in rovina, dove si tornava in Grecia, a questo 5 appuntamenti per farla innamorare, che segna anche il suo esordio alla regia. I commenti di chi ha visto il film sono per lo più favorevoli, ma certo non trionfa l'entusiasmo. Oh, sì, è una commediola. Abbastanza carino, insomma, trascorre un'ora e mezza piacevolmente. La solita americanata. Non tanto. Non granché, un po' palloso. No, a me sì, perché è romantico e lui è poco romantico. E insomma, il pubblico si divide fra romantici e poco romantici, come spesso accade. Si tratta sempre di azzeccare il film giusto. Un'occhiatina alla classifica, di cui abbiamo detto appunto della testa di The Hole in 3D di Joe Dante, con un incasso però molto molto risicato. Disastro per altri film che stanno naufragando dopo pochissime settimane di permanenza. L'esordio di Bright Star di Jane Campion, per esempio, è vicino al raccapricciante per quanto riguarda l'incasso. 127.000 euro, un ottavo posto, insomma. Jane Campion è stata un'autrice che in altri momenti muoveva un pubblico sicuramente. Poi Tata Matilda il grande botto è arrivata dopo due settimane quasi vicina alla fine dello sfruttamento commerciale a 636.000 euro. Insomma, non lo so, l'ho detto prima, se sono i mondiali, se è il tempo o che cosa, ma certo non è che brilli il box office italiano. Tra questi però vogliamo segnalare, non per l'incasso assoluto che è modesto, ma per l'incasso per sala, cioè quanto ogni singola copia riesce a portare a casa, Il segreto dei suoi occhi, che è un bellissimo film che ha vinto l'Oscar quest'anno come miglior film straniero, un film argentino di Juan José Campanella, l'abbiamo recensito, ne abbiamo parlato qui alla Rosa Purpura qualche settimana fa, è però la più alta media per sala di tutto il botteghino, anche dei primi posti, per cui davvero bene, un film che è ancora in 75 cinema in tutta Italia, quindi si può andare a recuperare. Terza parte della nostra trasmissione, la parte dedicata, diciamo così, al magazine, cioè alla rivista, quello che si muove nel mondo del cinema al di là dei film. E al di là dei film ci sono i festival, come da sempre, insomma, il cinema si fa accompagnare. Vogliamo parlare di un festival giunto all'undicesima edizione, entrato, diciamo così, nella maggiore età cinematografica dopo i 10 anni. Si intitola Mare Metraggio e si svolge a Trieste. È in collegamento con noi colei che, insomma, ha la copaternità di questo festival e ne tiene le tesse un pochino, le redini artistiche, Chiara Omero, che saluto. Ciao Chiara. Tutti. Eccoti qua, come va a Trieste? Bel tempo? Ma sul golfo? Oggi non tanto, per dire la verità. Guarda, un po' dappertutto così. Speriamo che sia meglio settimana prossima, perché il 25 giugno comincia Mare Metraggio, insomma, senza il mare rimane il metraggio, che ci piace molto, perché noi siamo cinefili, ma insomma a Trieste contano molto anche le bellezze di questa città, che d'estate è davvero straordinaria. Senti, dicevamo, undicesima edizione, 9 giorni di cinema, cominciati con una retrospettiva su Sergio Rubini e poi concorso, film, eccetera. In poche parole, se ce la fai, raccontaci un po' quali sono i contenuti del menu di Mare Metraggio numero 11. Ma guarda, sono più di 9 serate, per dire la verità, perché abbiamo iniziato ieri sera e finiamo il 3 luglio. Ieri sera abbiamo iniziato, appunto, come dicevi tu, con Sergio Rubini, al quale abbiamo dedicato 14 film più un cortometraggio che vedremo poi il 2 luglio, quando lui sarà qui con noi a Trieste per incontrare il pubblico e stare un po' con noi in 2 giornate. E poi le sezioni, quelle solite, diciamo, per cui la sezione Mare Metraggio, che vede 85 corti che provengono veramente da tutto il mondo quest'anno, perché ne abbiamo dalle Filippine, dal Canada, Nuova Zelanda, Australia, Palestina, Israele, per cui uno sguardo veramente extraeuropeo finalmente. e la sezione Ippocampo dedicata alle opere prime italiane. E quindi, quindi c'è sempre un po' di tutto, perché ricordiamo, il festival è un festival di cortometraggi, anzi una sorta di Champions League dei cortometraggi, no? Perché arrivano festival che hanno già vinto festival, che hanno già vinto festival un po' dappertutto in Europa e nel mondo, ma poi c'è questa straordinaria usanza di vedere i nuovi film italiani tutti insieme all'aperto, insomma, diciamo che è uno dei momenti anche più belli e qualificanti. Ti volevo chiedere questo però prima, perché la decisione di concentrarsi quest'anno su Sergio Rubini? Ma guarda, per dire la verità, faccio un passo indietro, perché sai che noi ogni anno a fine festival io annuncio quella che sarà la prospettiva dell'anno successivo, perché ogni anno il festival diciamo che punta, scommette su un attore emergente, e quest'anno sarà Michele Riondino, così come l'altro anno è stato Alvar Rohrbacher e via discorrendo in passato, per cui quindi Michele Riondino, Puglia, io Sergio Rubini l'ho sempre amato da un punto di vista artistico, per cui il passo è stato breve, volevamo passare ad un uomo dopo due retrospettive dedicate a due splendide attrici, Laura Morante e Margherita Bui. Anche Margherita Bui in un qualche modo, con la stazione che avevamo mostrato, mi riportava a Sergio, per cui è stato così una cosa abbastanza naturale come scelta, ecco. E tra l'altro Sergio Rubini, ambasciatore di Puglia, vedo che la Puglia sarà anche protagonista un po' di questa edizione. Sì, facciamo un pomeriggio interamente dedicato alla Puglia. Tra l'altro a Trieste c'è un'associazione di pugliesi di 15.000 iscritti, per cui sono numerosissimi, ho scoperto. Sapevo che ce n'erano tanti, ma non pensavo tanti effettivamente. E quindi insomma sicuramente ci daranno una mano anche loro e sono contentissimi così di questo sguardo verso la loro terra, e oltretutto faremo un incontro tra le due Film Commission, quindi a Puglia e Friuli Venezia Giulia Film Commission, che sono direi tra le Film Commission giovani forse quelle che lavorano meglio in Italia oggi come oggi. Assolutamente, si è girato molto negli ultimi tempi in Puglia, anche alcuni film molto azzeccati, per cui sicuramente un territorio di una varietà molto estetica florido, straordinaria, per cui esatto. Sicuramente si presta molto a un cinema mediterraneo. Senti, per quanto riguarda invece il concorso, livello di quest'anno dei cortometraggi? Ma guarda, io ho trovato gli extra europei bellissimi, veramente di un livello strepitoso, uno su tutti un filippino che veramente mi ha lasciato senza fiato e che sicuramente incuriosirà molto anche il nostro pubblico. Livello buono, ma come dicevi tu prima, effettivamente forse anche merito del fatto che comunque da me arrivano cortometraggi che per regolamento devono aver già vinto ad altri festival, per cui direi che è un po' il meglio del meglio. Io ne ho visti 1300 quest'anno e devo dire che sceglierne 85 è stato difficile. Beh, insomma, 85 sono anche tanti comunque. Su 1300 ne ho lasciati tanti indietro che avrei voluto in un qualche modo, ma insomma non possiamo fare due mesi di festival. Perché pensate che vita fa questa donna, insomma, 1300 film che arrivano durante l'anno da vedere, da spiare, insomma, ogni tanto vai avanti veloce, dai Chiara. Guarda, quest'anno qualche volta sì, però in effetti quando racconto questa cosa mi guardano tutti con gli occhi sgranati, mi dicono se sono scema, ma che non può essere, avrò qualcuno che mi fa la scrematura, e invece no. Io da ottobre dell'anno precedente a maggio, perché chiaramente insomma a me cominciano ad arrivare già a fine settembre, ottobre, i corti che sanno già di aver vinto nella prima parte dell'anno e che quindi possono partecipare per l'anno successivo. E vabbè, ho il mio buco. Beh, insomma, benissimo, assolutamente. Nel tuo bunker, allora, coperta di cortometraggi. Grazie a Chiara Omero, vi ricordo l'appuntamento a Trieste, Mare Metraggio, 11ª edizione, dal 25 giugno al 3 luglio. Ciao Chiara. Ciao a tutti, grazie. E allora abbiamo parlato di Mare Metraggio, festival triestino fra i più belli che riguardano il cortometraggio, e tra l'altro appunto nobilitato anche da queste serate col nuovo cinema italiano all'aperto, e poi il mare, Trieste, città straordinaria, per cui davvero un ottimo motivo anche per fare un salto da quelle parti. Noi andiamo alla seconda traccia misteriosa del DVDM di oggi. Dovete avere mortaio e pestello. Detto fra noi, mio padre è orripilato che io segua un corso di cucina. Mi ha perfino offerto dei soldi extra per assumere un cuoco. Ma io niente paura. Continuate, divertitevi, allegria. È questo che conta. E avete sentito qui appunto questo assoluto accento francese, chissà se è un altro indizio, la rosa purpura a @radio24.it, se avete già indovinato. Ed eccoci puntuali all'appuntamento con Trailer USA, la nostra vetrina sulle anticipazioni cinematografiche americane. Il film che vi proponiamo oggi, noi forse lo vedremo in autunno, anzi certamente lo vedremo in autunno, anche perché è il quinto in classifica in America in questo momento, dove è uscito proprio il 4 giugno. Parliamo di Killers, con il giovane marito di Demi Moore, Ashton Kutcher e Catherine Hegel. E proprio di Demi Moore, il film, e Ashton Kutcher parla anche il gossip, ma di questo chiaramente facciamo parlare Micaela Bellisario. Ciao Micaela. Ciao Franco. Sì, in effetti gossip scatenato, hai detto bene. Dovete sapere che per questo film, che vede Ashton Kutcher nelle vesti di Spencer Ames, un super assassino, uno 007 al soldo del governo, il giovane maritino di Demi Moore si è sottoposto a durissimi allenamenti, e infatti durante tutto il film lo vedrete, appare quasi sempre a torso nudo, bellissimo, con un addome a corazza tipo tartaruga, come dicono tutti gli appassionati di fitness. Insomma, finito il film, Ashton ha smesso di allenarsi, facendo arrabbiare l'attrice che, come noto, è una fanatica del fitness, tanto da curare la sua immagine a livelli maniacali. Ma torniamo al film. Ashton Kutcher è uno 007, come dicevo, che un giorno a Nizza incontra la donna dei suoi sogni, una spiritosa e bella tecnica di computer che si chiama Jen, ed è subito amore. I due si sposano e lui decide di mollare il suo lavoro di 007, ma non glielo dice. Sentiamo il loro incontro. I'm Spencer, by the way. Jennifer, sometimes Jenny. No, it Jen, it's just Jen. You want to get a drink with me tonight? Yeah. Great. L'amore, come si dice, rende ciechi. Lui, come dicevo prima, non rivela a lei di essere stato un killer, ma a 3 anni dal sì, all'improvviso, misteriosi sicari piombano in casa, nella loro villetta bianca tipica americana, nella periferia di una metropoli, e cercano di ucciderli. E Jen e Spencer scappano, ma non riescono fino alla fine a capire chi voglia farli fuori. Ovviamente la seconda parte del film si consuma in una fuga rocambolesca, come si dice in gergo, che è anche qualche spunto divertente. In questo passo del trailer, Jen entra in casa e scopre il marito Spencer mentre tenta di uccidere un sicario, e appunto la sentirete urlare. Surprise, I'm back! Stop hurting him! Psycho killer! Who do you work for? Let's just say that I work for the blah blah blah and they gave me a license to blah. Perfetto Micaela, allora la prossima settimana l'appuntamento con te. Diciamo però che il film, nel cast c'è anche Tom Selleck, a proposito di grandi dei telefilm degli anni 70 e 80, al botteghino non ha brillato particolarmente, come dicevamo è solo quinto, che anzi sembra fare il paio con Innocenti bugie con Tom Cruise e Cameron Diaz, in uscita in Italia il 24 settembre, che vede il ritorno sugli schermi di Cruise a 2 anni da Valkyrie, un film di cui parleremo nelle prossime settimane qui a Trailer USA. Ciao Micaela. Ciao Franco, alla prossima settimana. Di nuovo insieme alla Rosa Purpura, la quarta parte, come sempre dedicata al cinema da vedere o rivedere in casa, e come sempre aperta da una segnalazione degli amici del settimanale Film TV. Sentiamo che cosa hanno scelto oggi Sara Sagrati. Buongiorno Franco e ben ritrovati a tutti con la segnalazione della settimana di Film TV. Il film che vi consigliamo questa settimana è una commedia mitica, un film che è stato votato dai newyorkesi come il più rappresentativo per la loro città, il film che rappresenta meglio New York, un film dove c'è un personaggio femminile straordinario assolutamente da amare, un film che riesce a mescolare la canzone Moon River con il gangster, con addirittura la perversione, con un mondo glamour è bellissimo, ma anche molto triste, e una storia d'amore incredibile e indimenticabile. Ovviamente avrete capito tutti, insomma, stiamo parlando di Colazione da Tiffany di Blake Edwards, 1961, con una splendida Audrey Hepburn. Il film andrà in onda su Rai 3 alle 21:10 di mercoledì 23 giugno, quindi in prima serata, all'interno di un ciclo dedicato proprio alla splendida attrice. una commedia sofisticata che non si può che guardare, riguardare, riamare o amare per la prima volta se non l'avete mai visto. E con questo è tutto, non abbiamo altro da aggiungere. Un saluto da FinTV, alla prossima settimana. Grazie, grazie Sara. Ed effettivamente le nuove leve potrebbero anche non averlo visto, e quindi è davvero una grande occasione, un film sempre imperdibile. Colazione da Tiffany, mercoledì 23 giugno, ore 21:10 su Rai 3. E allora andiamo alla terza e conclusiva traccia, quella che sarà rivelatrice, ovviamente, se non avete già indovinato finora, del DVD Game di oggi. Giulia, davanti ai fornelli, esercita su di me lo stesso fascino di un suonatore di timpani in una sinfonia. Lo sportello del forno si apre e si chiude così velocemente che quasi non si nota il gesto abile con cui affonde il cucchiaio in una pentola e lo porta poi alla bocca per assaggiarlo. Qui c'era addirittura un nome, insomma, che sarà decisivo nelle sorti dell'individuazione di questo film. Comunque l'indirizzo è la rosa purpurea @radio24.it, sempre completo del vostro indirizzo per poter eventualmente ricevere questo film. Noi però facciamo il consueto passo indietro di 7 giorni, perché vi facciamo ascoltare una delle clip che avevamo proposto la settimana scorsa. Giulio, io ero rientrato per cercare un po' di pace, di serenità, per riflettere anche a questo mio momento difficile nel sacerdozio. Ma io sono stato travolto dalla follia collettiva. Mio padre mi parla di sesso, di suoi dettagli sessuali. E questo è uno straordinario Verdone che, appunto, dopo aver lavorato in missione, rientra in Italia. Insomma, lo spaesamento porta molte riflessioni su cosa è vero, cosa è falso, cosa è artefatto, chi siamo diventati, cosa dovremmo essere. Questo è un po', come sempre, il sapore, il retrogusto amaro della commedia Io, Loro e Lara, l'ultimo film in ordine cronologico realizzato da Carlo Verdone e che esce appunto in DVD e Blu-ray in questo periodo. Hanno indovinato per primi, e quindi saranno raggiunti da una copia del Blu-ray del film di Verdone, Sebastiano Fuccio di Palestrina, Roma, e Stefania Arzini di Arsago Sepio, Varese. Questi i vincitori del Blu-ray Game della scorsa settimana. E a proposito dell'edizione in DVD e soprattutto in Blu-ray di Io, Loro e Lara, noi chiamiamo in causa Claudio Poffi, che è in collegamento con noi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli amici in ascolto. Sì, allora, sia l'edizione DVD che Blu-ray da Warner sono assolutamente notevolissime, qualità assolutamente pregevole, soprattutto per il Blu-ray, di cui segnalo tra l'altro addirittura la presenza di una doppia traccia audio ad alta risoluzione, entrambe veramente di pregio. Ci sono extra molto interessanti, c'è la visione del film in compagnia di Carlo Verdone, dove l'attore e regista compare sovraimpresso al film mentre approfondisce la lavorazione. C'è un backstage e addirittura 2 videoclip musicali introdotti da Verdone. E questi quindi i contenuti di questo Blu-ray Io, Loro e Lara. Abbiamo detto dei vincitori, una filmografia sempre divertente, brillante e anche ormai molto presente appunto in un video, quella di Carlo Verdone. Noi andiamo avanti a scoprire un film che invece ha qualche anno in più e che perpetua questa tradizione di ottimo cinema da ripescare che viene portata avanti dal marchio Koch. Questa volta ci soffermiamo sull'Imperatore nel Nord. Ascoltiamo la clip. Io viaggio per il paese da 5 anni. Ho scritto il mio nome sui serbatoi, dall'Alaska a Miami. Ho passato l'inferno perché l'inferno mi piace. Non ti fermi in questo albergo, caro. È il mio albergo. Le stelle di notte ce le ho messe io. Conosco presidenti e regnanti. Io posso viaggiare dove voglio, meglio dei presidenti delle compagnie ferroviarie. Sono il numero uno e non do lezioni e non prendo soci. Su questo treno non posi più il culo. È l'America della Grande Depressione, colma di disoccupati e senza tetto. Per gli emarginati, l'unico mezzo per muoversi in cerca di fortuna è di nascosto sui treni merci. In Oregon, sul convoglio 19, c'è il feroce capotreno Sheck, che ha dichiarato guerra ai viaggiatori clandestini, non perde occasione per allontanarli addirittura a martellate, provocandone spesso la morte. Dovrà vedersela con numero uno, il vagabondo più scaltro e forte, che lo sfida a impedirgli di viaggiare sul 19 diretto a Portland. Una delle opere più intense realizzate dal grande maestro Robert Aldrich, monumento a 2 colossali attori quali Lee Marvin ed Ernest Borgnine, arriva appunto su DVD grazie a Koch Media. pellicola in eccellenti condizioni, doppiaggio italiano dell'epoca, stereo, siamo nel 1973, ma da ascoltare c'è anche l'originale inglese. Tra gli extra segnalo un'interessante intervista audio ai protagonisti dell'epoca, breve making of e un libretto di approfondimento. Claudio, hai citato Ernest Borgnine e Lee Marvin, non escluderei nemmeno grandi nomi come Kit Carradine e Lance Erickson, sono davvero un cast straordinario messo insieme per questo film che torna su argomenti che la letteratura ha molto trattato, insomma quello appunto di questa marginalità umana raccontata per esempio da Jack London nella strada nel 1907, insomma un film di grande intensità. E a questo punto musica. La voce graffiante e vellutata, ma molto giovane soprattutto, di Michael Jackson, perché il film di cui vogliamo parlarvi, e anche per omaggiare la scomparsa del re del pop a quasi un anno ormai di distanza dall'evento fatale, ebbene, dicevo, è Moonwalker. Claudio, arriva nelle sale un'edizione, se non sbaglio, anche un po' riveduta di questo film. Sì, allora... Il Blu-ray è molto interessante di Moonwalker, è stato realizzato nel 1988 e quindi è un'operazione di ripescaggio molto, molto accurata, se vogliamo, e insomma il film all'epoca fu distribuito nelle sale in concomitanza con l'uscita dell'album Bad, aiutò sicuramente al lancio. Moonwalker è un film autocelebrativo che sicuramente assieme al più recente This Is It permette di ricordare, di percorrere veramente l'arte nel ballo e nella musica di questo grande artista. Qui Michael Jackson interpreta se stesso, è un performer sul palco, inseguito fuori scena dai fan, dai giornalisti, dai cineoperatori, è chiamato a proteggere tre giovanissimi amici dalla perfidia di Mr. Big, questo personaggio che vorrebbe diffondere ma non ci riuscirà la droga attraverso i bambini. Moonwalker è un collage, un miscuglio di musica, di balli, di effetti speciali in stop motion, di attori in maschera, pupazzi e modelli in creta. L'edizione Warner in alta definizione è interessante dal momento che offre in un'unica confezione sia il DVD che il Blu-ray. La visione di quest'ultimo rimane sicuramente la migliore di sempre, anche se le immagini presentano insomma della grana, finiscono in evidenza gli effetti in stop motion, gli effetti visivi di un'epoca in cui non esisteva ancora la computer graphic animation. Questo sicuramente non va considerato un limite del supporto in alta definizione, ma un limite della produzione di fine anni 80. Il prodotto è comunque ottimo, sufficiente la traccia Dolby Digital stereofonica in italiano, maggiore apertura per l'originale inglese DTS ad alta risoluzione. Come extra c'è un trailer e un libretto commemorativo con immagini dal film. Un film per ricordare Giacomo, 25 giugno 2009, 25 giugno 2010, un anno dalla sua scomparsa. Grazie Claudio Pofi. A presto, un saluto. E siamo arrivati alla fine della Rosa Purpurea di questa settimana. Appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24 per l'ora di cinema con Franco D'Assisti. Un saluto.